24. La storia. Mai era successo una cosa del genere, che a modo spara, uccide, eccetera, ma mai un giornalista. Oggi a Mix 24 raccontiamo la storia di Giancarlo Siani, 26 anni, giornalista precario del Mattino. Il 23 settembre dell'85 a Napoli tre killer senza volto lo uccidono mentre tornava a casa guidando la sua Meari. Un ragazzo mite e simpatico a tutti, che sperava in un'assunzione nel quotidiano di Napoli e che aveva il giornalismo nel sangue, in un territorio, la Campania, che negli anni Ottanta era dominata dalla Camorra e proprio in quegli anni consolida i suoi rapporti con la politica attraverso il sistema degli appalti pubblici. Siani ha 20 anni e le idee chiare, come ha ricostruito Marco Risi nel suo film del 2009 Fort Apache. Le notizie, i scoop, sono la rottura dei cazzi e fanno male. Fanno male assai. Io voglio fare il giornalista. E lo sapevo che mi dicevi questo. E magari vuoi fare pure il giornalista giornalista, no? No, perché anche qua ci stanno due categorie. Ci stanno i giornalisti giornalisti e i giornalisti impiegati. Siani comincia giovanissimo, a Napoli, a Castellammare, scarpinando tra i meandri di Torre Annunziata, ha frugato tra i fatti di cronaca e indagato sulla Camorra. Eppure il suo omicidio è un rebus, un giallo apparentemente senza spiegazioni, come raccontano ai nostri microfoni i suoi amici e colleghi Francesco Romanetti e Daniela Limoncelli. Nel clima comprensibile di quella sera cominciamo a farci a fare delle ipotesi fra di noi. E non avevi chiaro neanche il motivo fino in fondo in quel momento. Giancarlo lavorava da 3 mesi alla cronaca di Napoli, ma la maggior parte del suo lavoro, anche negli anni precedenti, lo aveva svolto a Torre Annunziata. Una città dove la Camorra era ovunque. Aveva raccontato la realtà sociale difficile di Torre Annunziata, aveva raccontato la Camorra di Torre Annunziata. Tutti sapevamo che era stata la Camorra, perché era... Che cos'altro poteva essere a Napoli in quel momento, in quel periodo? La Camorra. Aveva raccontato dei clan camorristici, del clan di Valentino Gionta. Ma la Camorra non aveva mai ucciso un giornalista. Una doccia fredda, un omicidio senza precedenti che per molto tempo rimane senza mandanti. Un delitto strano, singolare, a cominciare dall'arma usata per l'omicidio. Finché a sbloccare le indagini non arriva alla conferma di Fernando Cataldo, un pentito del clan di Valentino Gionta che avrebbe dovuto uccidere Giancarlo Siani. Giancarlo Siani è stato organizzato l'omicidio, non una calibre 9, attenzione, perché guarda, la calibre 9 è per i mafiosi, insomma, è una cosa importante ammazzare uno con la calibre 9, no? Fai capire che tu sei potente anche come arma, come Kalashnikov e tutto questo. Giancarlo Siani è stato organizzato con una 7,65. Una persona comune, per non far capire, lo diceva che si hanno ammazzato per la macchina. Per l'indagine è più difficile a capire dove arriva. La magistratura, cioè, non capiva niente, dice, questo può essere anche una cosa di donna, si diceva una cosa di donna, qualche marito geloso, perché è una persona comune 7,65, non un agguato con la moto, oppure un agguato, sai, una macchina che si ferma subito, no, un agguato pulito. Cioè, tu, io aspetto a te, un'ora, 2 ore sotto casa sua, grazie di Dio, cioè tu vieni, ti ammazzi e me ne vado. Una pistola calibro 7,65, non quella usata abitualmente per i delitti di Camorra, e una serie di piste tutte sbagliate. Per ben 9 anni, e per una ragione o per l'altra, le indagini sulla morte di Siani non portano a nulla. E allora, per cercare di capirne di più su questo omicidio, bisogna andare nella Torre Annunziata di quegli anni. Città violenta, centro del traffico di droga, serbatoio di killer per la Camorra. A capo della compagnia dei carabinieri di Torre Annunziata c'è Gabriele Senzales, oggi generale di brigata della riserva. Ricordo l'episodio emblematico a Torre Annunziata, fu proprio l'arresto di Cagliazzo, cognato di Giotto Valentino. Fu arrestato in un lido balneare di Torre Annunziata. Lui si era recato al mare e non solo aveva la sua dose di cocaina, ma aveva anche un mitra in una borsa, quindi lui andava a prendere il sole in spiaggia con un mitra nella borsa insieme a costume da bagno. Giancarlo fa sul serio, parla con la gente, raccoglie informazioni e si attacca a Senzales e ai suoi uomini. Vuole essere un giornalista giornalista, un cronista vero.

situazione di abbandono, una situazione di isolamento difficile, perché dopo i primi mesi di grande attenzione naturalmente si è scemata l'attenzione. È scemata del tutto, inchieste che andavano in tutt'altre direzioni fino a dimenticare tutto. Ma tu lo consideri altre direzioni perché c'erano depistaggi oppure proprio c'era incuria o incapacità di fare le indagini? Io questo non ho mai capito, cioè c'erano depistaggi. C'era sicuramente una difficoltà, c'era sicuramente un momento difficile, ma era anche un'altra magistratura, un'altra polizia, certo. Un'altra epoca, ecco. Sapeva ancora. Per quello che riguarda Giancarlo, tu pensi che con le rivelazioni del pentito Cataldo che abbiamo sentito in trasmissione si sia fatta definitivamente giustizia? Si è fatta giustizia sicuramente per quello che si è potuto fare, un'inchiesta che è stata ferma per 10 anni. Di più non si poteva fare, però le inchieste di D'Alterio e altri processi venuti fuori dall'inchiesta di Giancarlo denotano un quadro molto chiaro di Torre Annunziata in quegli anni, cioè connivenze fra camorra, politica e magistratura. D'Alterio l'ha dimostrato in altri processi collegati a quello di Giancarlo, per cui il quadro complessivo, chi legge le carte e chi ha subito quegli anni riesce a farselo. Grazie, grazie. Grazie a voi. Mix 24, la storia. Alessandra Clemente, 27 anni, assessore alle politiche giovanili del Comune di Napoli e figlia di Silvia Ruotolo, tua mamma, vittima innocente della camorra nel 97. Quanto è stata importante la storia di Giancarlo Siani per te? Io sono cresciuta, mamma e Giancarlo erano amici, entrambi due ragazzi che sono cresciuti al Vomero Arenella, e sono cresciuta con mamma che mi raccontava di questo suo caro amico, abitavano nello stesso parco a Piazza Leonardo, e che era stato ucciso. Quindi potete capire come per me, ma insieme a me per la città tutta, la storia di Giancarlo Siani è un qualcosa di profondamente dentro la nostra coscienza, dentro la nostra pancia, ed è questo il motivo per il quale dopo 29 anni, grazie alla determinazione di un uomo straordinario che è suo fratello, siamo tutti quanti insieme da Napoli al Parlamento europeo, l'Italia tutta, non soltanto a ricordare Giancarlo, ma soprattutto a portare avanti progettualità che cambiano la vita dei ragazzi nel nome di Giancarlo. In che cosa è cambiata la camorra oggi rispetto a quella che Giancarlo Siani raccontava in maniera così approfondita? Penso che oggi ci sia un impoverimento della camorra stessa, nel senso di essere frastagliata e spezzettata tra tantissime famiglie e responsabili e referenti che hanno vita molto breve e che sono estremamente giovani. E quindi se prima, negli anni Ottanta, c'era il racconto di famiglie e di clan molto strutturati e chiusi, adesso purtroppo questa è una brutta storia, la scelta di una vita di camorra che incontra la vita di tanti ragazzi non soltanto perché appartenente ad una famiglia, ma semplicemente perché si cresce e si vive in certi contesti. Tu sei sempre stata in prima linea nella sensibilizzazione per un rinnovamento della coscienza civile a Napoli. Ecco, a che punto siamo? La strada è in salita, ma il percorso è iniziato, perché il brutto è virale e fa rumore, il bello raramente è virale e non fa rumore, ma a Napoli c'è un bello ormai costante e determinato. Ecco, io rappresento non soltanto me stessa, ma un percorso collettivo di tante altre famiglie che per esempio non hanno permesso alla criminalità organizzata di rimanere da soli, di rimanere nel silenzio, nella rassegnazione, nell'odio, ma tante famiglie che hanno deciso che la propria attività di testimonianza e di denuncia era uno strumento fondamentale di cambiamento. Dopo l'omicidio di Davide Bifolco, il ragazzo colpito da un proiettile sparato da un carabiniere, la reazione del rione Traiano sembra far tornare indietro la città anni luce e sembra che in fondo a Napoli nulla sia cambiato. È così? No, a Napoli le cose cambiano, sono due episodi molto diversi e anche con delle peculiarità, ed è proprio questa narrazione della città. Ecco, per un episodio come Rione Taiano ce ne sono almeno altri 100 nel silenzio di Secondigliano, di Scampia, di Ponticelli, di Barra, di festival dedicati alla letteratura, festival dell'impegno civile nei beni confiscati, ragazzi che scelgono di non impugnare un'arma, ma di impugnare un righello per diventare ingegneri, per esempio. Quindi c'è questo tessuto di resistenza che molto forte nella città di Napoli, che deve essere però sempre più sostenuto attraverso anche un impegno e un sostegno pubblico concreto. Ascoltiamo quest'audio della cugina di Davide Bifolco, che poi commentiamo. Siamo arrivati subito, mi ha chiamato mia zia che stava sul posto e lui stava ancora a terra, ma non sapeva che era morto, ma lui era già morto. L'hanno portato in ospedale, non hanno fatto scendere il giudice, troppe cose, perché era un poliziotto e non può pagare, deve pagare anche lui, come paga un cristiano normale. No, che si veste, ha fatto un abuso di potere in questo momento, a sparare contro un sedicenne, che non ci ha fatto niente. Sono loro i primi camorristi, sono loro i primi camorristi. La camorra non avrebbe mai ucciso un sedicenne, la polizia sì, una vergogna, uno schifo. Ecco, la camorra non avrebbe mai ucciso un ragazzino, lo Stato sì, ma come si fa a distruggere questa cultura? Si fa ricordando ad ognuno di noi che la camorra ha ucciso Annalisa Durante, che aveva 14 anni, la camorra ha ucciso Fabio De Pande, un bambino di 2 anni, Serena Simonetta Lamberti, la camorra ha ucciso Teresa Buonocore, l'abbiamo ricordata il 20 di settembre, una mamma che ha denunciato gli abusi di pedofilia sulla propria famiglia. Quindi la camorra è il nemico. Noi vogliamo ricordare e vogliamo far fare proprie tutte le vittime innocenti della città di Napoli su una convinzione. Mia mamma, Annalisa, Giancarlo Siani erano nel posto giusto al momento giusto. Giancarlo era un ragazzo che lavorava, mia mamma teneva mano nella mano mio fratello e tornava a casa. Annalisa era con delle amiche a chiacchierare sotto il portone. Lino Romano usciva di casa per andare a giocare a pallone dopo aver baciato la sua fidanzata. Loro erano nel posto giusto al momento giusto, mentre invece ci sono altre situazioni dove per delle scelte alcuni ragazzi, alcuni individui non erano al posto giusto al momento giusto, e quindi dobbiamo ricordare questo e non fare confusione. La storia di Davide ha fame e sete di giustizia, ma è da ricondurre all'errore di un singolo, del carabiniere, e ad un frangente, ad una situazione, ma sono due percorsi diversi, due strade anche di giustizia che devono essere diverse. Che cosa avete organizzato per l'anniversario della morte di Giancarlo oggi a Napoli? In primo luogo sono importanti i luoghi, perché Giancarlo è stato sparato in una strada che quotidianamente è attraversata da tanti ragazzi, da tanti cittadini della città di Napoli. Quindi ci incontreremo tutti sulle rampe dedicate a Giancarlo Siani, che si trovano a Piazza Leonardo, il luogo dove tutti quanti ci rimandiamo con quell'immagine della Meari, quella Meari verde dove il corpo di Giancarlo purtroppo fu trovato senza vita, in primo luogo dalla sua famiglia, dalla sua mamma, dalle sue persone care. E poi al mattino, e lì da anni c'è la famiglia, l'associazione Giancarlo Siani, che realizza un premio, e questo premio quindi verrà consegnato nelle mani di un altro giornalista che, come Giancarlo, magari in condizioni di precarietà, però racconta la verità. E poi la sera ci sarà una cosa alla quale noi come città abbiamo tenuto molto: il Palazzo delle Arti di Napoli, che si trova in Via di Mille. Alle ore 17:30 inaugureremo una mostra che sarà aperta alla cittadinanza per Giancarlo Siani e tutte le vittime della criminalità. Ci saranno delle proiezioni, dei video, dei recital, e ci sarà la Meari di Giancarlo Siani, che l'anno scorso, ecco, se qualcuno l'ha voluta fermare, quella Meari l'anno scorso è ripartita e sta attraversando un viaggio attraverso l'Italia e l'Europa, proprio di racconto delle storie di tanti altri giornalisti precari che vengono minacciati. E noi dobbiamo ricordare che quello che si fa non è abbastanza, dobbiamo essere vicini ai giornalisti e dobbiamo i territori che Giancarlo Siani raccontava sostenerli concretamente attraverso attività pubbliche che parli ai ragazzi e che diano delle opportunità reali, sottraendoli alle strade di malavita. Grazie Alessandra Clemente, insomma tante attività per ricordare Giancarlo Siani, grazie ancora. Grazie a voi.